Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Alto e snello, come un antico gladiatore, muscoloso come uno spartano. Il giovane Andrea Cavalcanti fece una corsa di un quarto d'ora senza sapere dove andasse, con l'unico scopo di allontanarsi dal luogo dove per poco non era stato arrestato. Quando si fermò, non era per la fatica, ma per il bisogno di prendere una decisione. Si sedette sulle rive di un fosso e 10 minuti più tardi la decisione era presa. Si diresse quindi verso Compiègne, dove c'era un eccellente albergo. La cosa migliore per ora era quella di munirsi di un buon sonno e di una buona cena contro le fatiche future. Mentre il cameriere preparava la cena, Andrea chiese se poteva avere la camera numero 3 in cui aveva dormito l'ultima volta. Disgraziatamente, la numero 3 era occupata da un giovane che viaggiava con la sorella. Gli fu data la camera numero 7, che dava, come la numero 3, sul cortile. Alle 6 del mattino, Andrea fu svegliato da un raggio di sole che tiepido e brillante gli infastidì il viso. Saltò giù dal letto e corse alla finestra. Un gendarme attraversava il cortile e un'altra uniforme azzurra, bianca e gialla stava con la carabina in mano, di sentinella, sulla porta di strada, la sola da cui si poteva uscire. «Mi cercano», fu il primo pensiero di Andrea, e dopo una rapida occhiata si mise ad arrampicarsi su per la cappa del camino. Cancellò con i piedi la traccia dei suoi passi sulla cenere e cominciò a scalare la cappa che gli offriva la sola via di salvezza nella quale potesse ancora sperare. Compiègne, residenza reale. Compiègne, città di caccia. Compiègne, città di guarnigione. È abbondantemente provvista di autorità, di gendarmi e di commissari di polizia. Le indagini erano dunque iniziate subito dopo l'ordine telegrafico e, essendo l'albergo della Campana e della Bottiglia il primo della città, si era naturalmente incominciato da lì. D'altronde, dal rapporto delle sentinelle che erano state di guardia durante la notte al municipio, il municipio era attiguo all'albergo della Campana, risultava che diversi viaggiatori vi avevano preso alloggio durante quella notte. La sentinella, che era stata di guardia fino alle 6 del mattino, si ricordava ancora di aver visto, alle 4 ed alcuni minuti, un giovane bussare all'albergo della Campana, la cui porta si aprì e si richiuse dietro di lui. Su questo giovane, che era arrivato così tardi, si erano concentrati tutti i sospetti. Costui non era altri che Andrea. Per la certezza di questi dati, il commissario di polizia e il gendarme, che era un brigadiere, si diressero verso la porta di Andrea. La trovarono socchiusa. Il brigadiere guardò intorno a sé, diede un'occhiata sotto il letto, spiegò le tende, aprì gli armadi e finalmente si fermò al caminetto. Grazie alle precauzioni di Andrea, nelle ceneri non era rimasta alcuna traccia del suo passaggio, però era un'uscita possibile e in simili circostanze tutte le uscite devono essere controllate minuziosamente. Il brigadiere si fece dunque portare una fascina e della paglia, otturò il caminetto come avrebbe caricato un mortaio e vi appiccò il fuoco. Le pareti della cappa crepitarono. Una colonna opaca di fumo si sprigionò su per il condotto e salì verso il cielo come il tetro getto di un vulcano, ma egli non vide cadere il prigioniero come si aspettava. Per Andrea, in lotta con la società fino dalla giovinezza, ci voleva altro che un gendarme, fosse anche elevato al grado rispettabile di brigadiere. Prevedendo l'incendio, era salito sul tetto e si era nascosto dietro il comignolo. Per il momento ebbe qualche speranza di essere in salvo, perché udì il brigadiere chiamare i due compagni e dire loro ad alta voce: «Non c'è più!» Ma allungando cautamente il collo, vide che i due gendarmi, invece di ritirarsi come sarebbe stato naturale a quel primo annuncio, raddoppiavano l'attenzione. Allora, a sua volta, girò intorno a sé lo sguardo. Il municipio, colossale edificio del XVI secolo, si innalzava come una tetra fortezza alla sua destra, e dalle finestre si potevano controllare tutti gli angoli e gli angolini del tetto, come dall'alto di una montagna si vede la vallata. Andrea comprese che in breve avrebbe visto comparire la testa del brigadiere da una di quelle finestre. Decise quindi di scendere, non per lo stesso fumaiolo da cui era venuto, ma ne cercò uno che non mandasse fumo. Lo raggiunse andando carponi sul tetto e scomparve nel suo orifizio senza essere stato visto da alcuno. Poco dopo si aprì una finestrella del municipio e apparve la testa del brigadiere, che rimase per alcuni istanti immobile, come uno di quei bassorilievi di pietra che decorano l'edificio. Quindi, con un lungo sospiro di delusione, la testa scomparve. Il brigadiere, tranquillo e dignitoso come la legge di cui era il rappresentante, passò senza rispondere alle mille domande della folla riunita sulla piazza e rientrò nell'albergo. «Ebbene?» domandarono a loro volta i due gendarmi. «Ebbene, figli miei», rispose il brigadiere, «è evidente che il brigante è scappato questa mattina presto, ma ora lo inseguiremo sulla strada di Villers-Cotterêts e di Noyon, e perlustreremo la foresta dove lo acchiapperemo infallibilmente». L'onorevole funzionario aveva appena finito la frase con quel tono proprio dei brigadieri di gendarmeria, e mentre pronunciava questo sonoro avverbio, un lungo grido di spavento, accompagnato dal ripetuto tintinnio di un campanello, risuonò nel cortile dell'albergo. «Oh, oh, che cosa c'è?» gridò il brigadiere. «A quale numero suonano? Al numero 3!» In quell'istante le grida e il suono del campanello raddoppiarono. «Chi alloggia al numero 3?» chiese il brigadiere. «Un giovane, giunto con la sorella questa notte con una vettura postale e che ha domandato una camera a due letti!» Il campanello suonò per la terza volta, con un'intonazione piena di angoscia. Ecco ciò che era accaduto. Andrea era sceso con molta destrezza fin oltre la metà del camino, ma là aveva messo un piede in fallo e, nonostante l'appoggio delle mani, era scivolato rovinosamente e soprattutto con più frastuono di quanto avrebbe desiderato. Non sarebbe stato niente se la camera fosse stata vuota, ma per disgrazia era abitata. Due donne dormivano nel letto. Quel rumore le aveva svegliate. I loro sguardi si erano fissati sul punto da cui proveniva il rumore e nel vano del caminetto avevano visto comparire un uomo. Una di esse, la donna bionda, aveva mandato quel grido terribile che era echeggiato per tutta la casa, mentre la bruna, aggrappandosi al cordone del campanello, aveva dato l'allarme scuotendolo con tutte le sue forze. Come si vede, Andrea cadeva di disgrazia in disgrazia. «Per pietà, non chiamate, salvatemi! Io non voglio farvi del male! Andrea l'assassino!» gridò una delle due donne. «Eugénie! La signorina Danglars!» mormorò Cavalcanti, passando dallo spavento allo stupore. «Aiuto! Aiuto!» gridò Louise d'Armilly, levando il cordone del campanello dalle mani inerti di Eugénie e suonando ancora più forte della sua compagna. «Salvatemi! Sono inseguito!» disse Andrea, aggiungendo le mani. «Per pietà, per grazia, non abbandonatemi!» «È troppo tardi, salgono!» rispose Eugénie. Infatti, un violento colpo con il calcio della carabina fece saltare la serratura, altri due fecero saltare i cardini e la porta infranta cadde dentro la stanza. Andrea corse all'altra porta che metteva sulla galleria del cortile e l'aprì, pronto a precipitarsi, ma i due gendarmi erano là. Con le carabine puntate, Andrea si fermò di colpo, ritto, pallido, con il corpo un poco rovesciato all'indietro, tenendo il suo inutile coltello nella mano contratta. «Fuggite, dunque!» gridò la signorina d'Armilly, nel cui cuore rientrava la pietà man mano che usciva lo spavento. «Fuggite, dunque!» «O uccidetevi!» disse Eugénie, con il tono e con l'atteggiamento di una di quelle vestali che nel circo ordinavano con il pollice al gladiatore vittorioso di finire il suo avversario atterrato. Andrea fremette e guardò la ragazza con un sorriso di disprezzo, con il quale provò che il suo animo corrotto non comprendeva affatto quella sublime ferocia dell'onore. «Uccidermi!» disse gettando il coltello. «E perché?» «Perché sarete condannato a morte e giustiziato come l'ultimo dei delinquenti!» gridò Eugénie. «Bah!» replicò Cavalcanti incrociando le braccia. «Ci sono sempre degli amici!» Il brigadiere avanzò verso di lui con la sciabola in mano. «Su via, su via!» disse Cavalcanti. «Rinfoderatela, mio brav'uomo! Non vale la pena di fare tanto schiamazzo! Perché mi arrendo?» E tese le mani alle manette. «Avete qualche commissione per il vostro signor padre, signorina Eugénie?» disse Andrea con il riso dell'impudenza. «Secondo ogni probabilità, torno a Parigi!» Eugénie si nascose la testa fra le mani. «Oh, oh, oh!» disse Andrea. «Non c'è ragione di vergognarsene, e non vi rimprovero di aver preso il postale per corrermi appresso. Non ero forse quasi vostro marito?» E pronunciata questa battuta, Andrea uscì, lasciando le due fuggitive in preda alla vergogna e ai commenti degli spettatori. Un'ora dopo, vestite entrambe di abiti da donna, montarono sul loro calesse da viaggio. Era stata chiusa la porta dell'albergo per sottrarli ai primi sguardi, ma quando la porta fu riaperta, non si poté evitare di passare in mezzo ad una doppia fila di curiosi maldicenti e desiderosi di vederle. Eugénie abbassò le tendine, ma se non vide più, udì ancora le derisioni ingiuriose che arrivavano fino a lei. «Perché il mondo non è un deserto?» gridò gettandosi nelle braccia della signorina d'Armilly con gli occhi sfavillanti di rabbia, come Nerone quando desiderava che tutto il popolo romano avesse una sola testa per poterla tagliare con un solo colpo. Thank you. La sera in cui Valentin apprese della fuga di Eugenie e dell'arresto di Andrea, alias Benedetto, mentre suonavano le 11 e l'infermiera, dopo aver messo a portata di mano della malata la bevanda preparata dal dottore, si era ritirata in cucina, una scena inattesa accadeva in quella camera chiusa tanto accuratamente. Valentin, in preda da un'ora a quella febbre che la saliva ogni notte, lasciava che la sua mente, non più soggetta alla sua volontà, continuasse il suo lavorio attivo, monotono e implacabile, che si affaticava a riprodurre incessantemente gli stessi pensieri o a generare le stesse immagini. Dal lucignolo del lume notturno si sprigionavano mille e mille raggi che davano vita a strane apparizioni, quando d'un tratto, al suo tremulo riflesso, Valentin credette di vedere aprirsi lentamente lo scaffale dei libri, posto a fianco del caminetto in un incavo del muro, senza che i cardini sui quali esso sembrava ruotare producessero il minimo rumore. Valentin si era ormai troppo familiarizzata a causa della febbre con quelle apparizioni per spaventarsi. Spalancò soltanto gli occhi sperando di riconoscere Morrel. La figura continuò ad avanzare verso il letto. Quindi si fermò e parve ascoltare con profonda attenzione. In quel momento il volto del notturno visitatore fu illuminato da un riflesso di luce. «Non è lui», mormorò la ragazza. E aspettò, convinta di sognare, che quell'uomo, come accade nei sogni, scomparisse o si tramutasse in qualche altra persona. Si toccò soltanto il polso e, sentendolo battere violentemente, si ricordò che il miglior mezzo per far scomparire quelle importune visioni era di bere. Valentin tese dunque la mano per prendere il bicchiere dal vassoio di cristallo su cui era posato, ma mentre allungava fuori dal letto il braccio tremante, l'apparizione fece ancora due passi più rapidi degli altri verso il letto, giungendo così vicina alla ragazza che questa ne udì il respiro e credette di sentire la pressione della sua mano. La pressione aveva lo scopo di fermarle il braccio. Valentin lo ritirò lentamente. Allora, quella figura, da cui non poteva staccare lo sguardo e che, d'altra parte, sembrava piuttosto protettrice che minacciosa, prese il bicchiere, si avvicinò al lume e guardò la bevanda come se avesse voluto esaminarne la trasparenza e la limpidezza. Ma quella prima prova non bastò a quell'uomo, o piuttosto a quel fantasma, poiché camminava così dolcemente che il tappeto soffocava il rumore dei passi. Quell'uomo prelevò dal bicchiere una cucchiaiata della pozione e l'inghiottì. Valentin guardava ciò che accadeva profondamente sbigottita. Credeva che quella visione sarebbe svanita da un momento all'altro per far posto a un'altra visione, ma l'uomo, invece di svanire come un'ombra, si avvicinò e, porgendole il bicchiere con voce piena di emozione, «Ora», disse, «bevete». Valentin trasalì. Era la prima volta che una delle sue visioni le parlava. Aprì la bocca per mandare un grido. L'uomo si posò un dito sulle labbra. «Il signor Conte di Montecristo», mormorò lei. Dallo spavento che si dipinse negli occhi della ragazza, dal tremito delle sue mani, dal gesto rapido che fece per nascondersi sotto le lenzuola, si poteva intuire l'intima lotta che avveniva in lei fra il dubbio e la certezza. La presenza di Montecristo nella sua camera a quell'ora, la sua entrata misteriosa, fantastica, inspiegabile, da un muro, erano impossibili da comprendere per la mente vacillante di Valentin. «Non chiamate, state calma», disse il conte. «Non abbiate in fondo al cuore nemmeno l'ombra di un sospetto, di un'inquietudine. L'uomo che vi sta dinanzi è per voi il più tenero padre, il più rispettoso amico che possiate sognare». Valentin non riuscì a rispondere, ma il suo sguardo spaventato voleva dire: «Se le vostre intenzioni sono pure, perché siete qui?» Con la sua meravigliosa sagacia, il conte intuì tutto quanto passava nel cuore della ragazza. «Ascoltatemi», disse, «o piuttosto guardatemi. Vedete i miei occhi arrossati e il mio viso ancora più pallido del solito? È perché da quattro notti non chiudo occhio, da 4 notti veglio su di voi, vi proteggo, vi conservo al nostro amico Maximilien. Un'onda vivace di sangue salì rapidamente alle guance dell'ammalata. Siete dunque medico? Sì. È il migliore che il cielo possa mandarvi in questo momento. Credetemi. Valentin, durante questa lunga veglia, disse Montecristo, ho osservato quali persone venivano da voi, quali alimenti vi preparavano, quali bevande vi servivano. Poi, quando queste bevande mi sembravano pericolose, entravo, come ho fatto ora, vuotavo il vostro bicchiere e sostituivo al veleno una bevanda benefica, che invece della morte che vi era stata preparata, faceva circolare la vita nelle vostre vene. Il veleno? La morte! Gridò Valentin, credendosi nuovamente in preda a quella febbrile allucinazione. Di che cosa mi parlate dunque, signore? Zitta, figlia mia! Disse Montecristo portando nuovamente il dito alle labbra. Ho detto il veleno, sì. Ho detto la morte, sì, lo ripeto, la morte. Ma prima bevete questo. E il conte sfilò dalla tasca una boccettina contenente un liquore rosso, di cui versò alcune gocce nel bicchiere. E quando avrete bevuto, non prendete altro per tutta la notte. Valentin allungò la mano, ma appena ebbe toccato il bicchiere la ritrasse spaventata. Montecristo allora prese il bicchiere, ne beve la metà e lo porse a Valentin, che trangugiò sorridendo il resto del liquido. Oh sì, disse. Riconosco il gusto delle mie bevande notturne, di quell'acqua che apportava un po' di fresco al mio petto, un po' di calma al mio cervello. Grazie, signore, grazie. Ecco, in che modo avete vissuto per 4 notti, Valentin? Disse il conte. Che ore crudeli ho passato per voi. Che terribili torture allorché vedevo versare nel vostro bicchiere il veleno mortale e temevo che aveste il tempo di berlo prima che potessi intervenire per buttarlo nel caminetto. Ma dite, signore, riprese Valentina al colmo del terrore, se avete visto versare il veleno nel mio bicchiere, avrete pur visto la persona che lo versava. Sì. Valentin si levò a sedere sul letto e, coprendo il seno più pallido della neve con la batista ricamata, ancor molle del sudore freddo del delirio, l'avete vista? Ripeté la ragazza. Sì. Ripeté una seconda volta il conte. Quanto mi dite è terribile, signore. Nella casa di mio padre, nella mia camera, sul mio letto di dolore, qualcuno tenta di assassinarmi. Andatevene, signore, voi tentate la mia coscienza, voi bestemmiate la divina bontà. Ciò che dite è impossibile. Non può essere. Siete voi la prima colpita da questa mano, Valentin? Non avete visto morire il signore di Saint-Méran? La signora di Saint-Méran, Barrois. Avreste visto morire anche il signor Noirtier, se la cura che segue da 3 anni non lo avesse immunizzato, combattendo il veleno con la sua fazione al veleno. Oh mio Dio, è dunque per questo, disse Valentin, che da circa un mese mio nonno esige che io prenda una parte della sua pozione. «E quelle pozioni», disse Montecristo, «hanno un gusto amaro come quello della scorza d'arancia essiccata, non è vero?» «Sì, mio Dio, sì!» «Ecco tutto spiegato», disse Montecristo. «Anche vostro nonno sa che qui si avvelena, e forse sa chi avvelena. Egli ha premunito voi, sua nipote prediletta, contro la sostanza mortale. Ecco perché siete ancora viva, cosa che mi pareva inspiegabile, poiché eravate stata avvelenata con una sostanza che di solito non perdona». «Ma chi è dunque l'assassino? L'avvelenatore?» «Lo conoscerete presto», disse Montecristo tendendo le orecchie. «E in che modo?» disse Valentin guardando con terrore intorno a sé. «Perché questa sera voi non avete più febbre né delirio. Perché questa sera siete ben desta. Perché ora suona la mezzanotte e questa è l'ora degli assassini». «Mio Dio, mio Dio!» disse Valentin asciugandosi con la mano il sudore che imperlava la sua fronte. E infatti mezzanotte suonava lenta e triste. «Valentin», continuò il conte, «richiamate tutte le forze in vostro soccorso. Comprimete il cuore nel petto, soffocate la voce in gola. Fingete di dormire. E vedrete. Vedrete». Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it